Ergasto, quale insolita gioia, al suo armonia, quale celeste splendore, io ti mamma mi radice il cuore. O divini beati, decita di schierati, e confermisci di luce in terra ciò. E chi sei tu che d'invisibile voce con interrotti accenti l'altro di gioia precorri? Sì, correrò, ma dove m'avvolgerò al pievagante? In qual remote parti? Chi a partire costringe da questi rozzi alberghi fuori se volere l'opera dunque del ciel nota messia quel re tanto aspettato che sull'impiria sede con diadema di stelle Gesù, in braccio a Maria, si aspetta Gesù, in braccio a Maria, si aspetta Gesù, in braccio a Maria, si aspetta Gesù. tuo giubilo noi qui staremo attoniti. No, no, convive flauti, zampogne e cetre, sciogliamo la lingua al canto. Si raddoppino te le catene, orche all'uomo la libertà.

abbatte. La destra di Dante, d'un mio che bambino. Una forza fatale, Lucifero addomo. La spoglia mortale, d'un mio che fattuomo. Dov'è l'ardir? Sovvinto. La superbia. È caduta. Non sei il re. Senza scendere. Seguirvi è. Ma senza rio. Orge all'offesa. Accatena. Save it.